vabbè, noi ti abbiamo chiamata, poi insomma in questi giorni ci siamo viste. Casa Libera Tutte è una ex scuola che si trova a Torre Mauro, è stata occupata sabato dalle donne, dalle femministe, dalle lesbiche, una bellissima esperienza. Sabato eravamo un centinaio, è stato bello, lo spazio è bellissimo. È proprio bello, sì, infatti, speriamo che ci rimanga. Infatti, senti, che sì, si dice, come procede? Non l'avremo. Come? No, dico, come procede? Sono state delle giornate piuttosto intense e faticose, però, insomma, appunto, che ci racconti? Oggi bene, abbiamo parecchia solidarietà da parte delle compagne e delle occupanti delle altre case e movimenti Lotta per la Casa. E quindi niente, infatti invito tutte le altre compagne, ascoltatrici, a passarci a trovare, e invito anche ad un appuntamento che abbiamo organizzato per domani, facciamo il tè delle 5. E infatti vi invitiamo tutte. Eh sì, c'è un bello spazio all'aperto, un bello spazio anche al chiuso, se per caso disgraziatamente dovesse piovere. Piovere, sì, certo. Esatto. E poi ricordiamo comunque di venire portando anche qualcosa, perché ovviamente il luogo è ancora piuttosto precario, per cui portate il tè, i pasticcini, insomma, le torte, sosteniamoci insomma a vicenda. Ok, sì. Come procede? Procede che è confermato un incontro giovedì pomeriggio all'assessorato all'assessorato alla casa. Infatti approfitto della radio per lanciare questo appuntamento alle 2:30, là sotto l'assessorato, che si trova a Garbatella, dove c'è il mercato, verso la via, non me la ricordo precisamente. Casomai poi vi ritelefono, sì. E ve lo guardiamo noi, insomma. Ok, e ve lo dico. E niente, si aprirà questo incontro perché noi vogliamo portare la nostra specificità per quanto riguarda la lotta all'abitare, perché noi abbiamo scelto di abitare fra donne, di avere uno spazio separato e non soltanto un'abitazione, ma il nostro progetto appunto è uno spazio socioabitativo, quindi è aperto anche a tutte le idee e le iniziative che le donne vogliono portare qua. Infatti, quindi fateci capire, in contemporanea, diciamo, il tavolo che avete giovedì, ci sarà sotto all'assessorato un presidio? Un presidio, sì, esatto, sì, è una chiamata alle compagne, a tutte le donne che ci vogliono difendere e supportare in questa nostra battaglia, che è la benissimo battaglia di tutte. Quindi, perché comunque insomma, gli spazi sociali per le donne all'interno della città sono molto pochi, e averne un altro è veramente una risorsa importante. Infatti. Quindi allora domani c'è alle 17 la merenda lì da voi, anche una buona occasione chi ancora non è venuta per vedere lo spazio e incontrare voi. E poi giovedì alle 14:30 sotto l'assessorato, che adesso guardiamo l'indirizzo preciso, un presidio per sostenere questo giustissimo progetto, che si può anche sostenere quindi con delle idee, iniziative. Sì, esatto, qualsiasi cosa può venire in mente, noi siamo aperte nel svilupparla insieme. Benissimo, va bene, quindi l'importante, insomma, lo spazio c'è e le idee adesso arriveranno, speriamo. Va bene, ti ringraziamo bene molto, ci sentiamo ovviamente. Grazie nel corso della giornata, qualsiasi cosa, noi siamo qua e se no poi ci si vede domani. Va bene, sì, allora domani. Grazie. Buon proseguimento, buon pomeriggio. Ciao. Ciao, ciao. A tutte. Ciao.